Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo anche e soprattutto della riunione della Banca Centrale Europea a inizio mese. Come ricordavamo anche ieri, la Banca Centrale Europea fa anche il comunicato stampa e la conferenza stampa, ma soprattutto c'era molta attesa per sapere se veramente ieri la cena informale che precede il board era stata una cena tranquilla, diciamo così, o invece, come sembrava da varie indiscrezioni precedenti la cena, dalla cena fossero emerse delle tensioni particolari sul modo in cui opera Mario Draghi. Così non è stato, almeno Mario Draghi dice che la cena è andata meglio del previsto. Devo dire che il Consiglio ha dato all'unanimità le deleghe a Mario Draghi e alla Banca Centrale Europea per gli interventi anche futuri. Draghi infatti ha chiarito che c'è un mandato unanime allo staff della Banca Centrale Europea per nuove eventuali misure se necessarie, ulteriori misure non convenzionali, in cui rientrano per esempio gli acquisti di ABS, di asset-backed securities, di crediti, diciamo, delle banche, quelli decisi a inizio settembre, così come tutto il piano di da 800 miliardi complessivi per le banche, e a patto che le banche girino questi soldi a tassi agevolati, li ricevono a tassi agevolati da BCE, li girino per prestiti a famiglie e imprese, ma non per i mutui immobiliari. Dicevo, queste sono alcune delle misure non convenzionali già adottate dalla Banca Centrale Europea. Non ne restano molte, resta l'acquisto di titoli di Stato, su cui la Germania è nettamente contraria e quindi anche la Bundesbank, e questo sarebbe il cavallo di Troia, diciamo, per iniziare a stampare moneta, perché il modo in cui si stampa moneta, l'abbiamo spiegato molte volte, si chiama quantitative easing, detto in soldoni e in maniera un po' imprecisa, la banca centrale acquista debito pubblico e nel farlo stampa moneta. Adesso non è esattamente così, ma per far capire a tutti come ha funzionato negli Stati Uniti, dove è stato applicato massicciamente ed è appena terminato. Per quello che riguarda la reazione del mercato, allora, le borse oggi sono quelle europee quasi tutte positive, direi. Parigi mezzo punto percentuale come Francoforte, Londra invariata, l'America più 0,14. Milano invece è negativa di uno 0,90%, perché a parte Finmeccanica che guadagna il 6%, Prismian il 2,42%, Buzzi Unicem l'1,50% come Steam Microelectronics, l'1,20% lo guadagna Saipem, l'1% il rialzo di A2i, di Wall Duty Free, tutto il resto è negativo. Anche le banche, Iux meno 4,80, Popolare di Milano meno 4,30, Tenaris meno 3,80, Monte dei Paschi meno 3,5, Ubibanca perde il 3%, Unipolsai il 2,70, come Telecom Italia, la Popolare Emilia Romagna perde il 2,5% come il Banco Popolare, Mediobanca perde il 2%, più contenuto il calo di Unicredit l'1,30% e di Intesa San Paolo lo 0,90%. Euro sempre a quota 1,24,20, leggermente più debole visto che si sta avvicinando a quota 1,23 nei confronti del dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Parlavamo di valute, vale la pena ricordare come di nuovo il rublo stia crollando nei confronti del dollaro e dell'euro. L'euro era scambiato a 58 rubli, è un nuovo record negativo per la valuta russa, e da questo punto di vista non arrivano buone notizie in merito alla vicenda della crisi ucraina e delle ritorsioni, chiamano così, che Mosca ha messo in atto. La Russia ha deciso infatti poco fa di bloccare le importazioni di alcuni tipi di carne bovina provenienti da 10 paesi europei: Belgio, Danimarca, Slovacchia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Polonia e Germania. la motivazione ufficiale è la contaminazione d'antrace, ma sappiamo che sono tutte scuse, diciamo, è il modo in cui la Russia risponde al boicottaggio o alle sanzioni, per meglio dire, scusate, decise dall'Unione Europea. Ricordo che Mosca ha già bloccato le importazioni di numerosi prodotti agroalimentari provenienti sia dall'Europa che dagli Stati Uniti, appunto come risposta alle sanzioni occidentali sulla crisi ucraina. Quindi voi vogliono sapere se il movimento dell'euro è frutto delle parole di Draghi? Sì, secondo molte agenzie è anche frutto delle parole di Draghi. Era arrivato fino a 1,2407, adesso è 1,2426, ma ripeto, se guardiamo l'euro di qualche mese fa, 1,41-1,42, un bel calo c'è già stato, anche se forse non sufficiente. Adesso arriveremo alla Banca Centrale Europea, conferma i tassi invariati allo 0,05%. Faccio notare che oggi c'è un rapporto anche preoccupato dell'OCSE che dice: attenzione, nonostante alcuni paesi stiano cominciando a risalire la china, l'area euro sta rallentando e rischia di fermarsi, e questo rappresenta un rischio per l'intera crescita mondiale. Come dire, la debolezza dell'area euro dovuta al crollo, al calo dei consumi interni, a loro volta, a mio avviso, dovuti anche a una massiccia cura di sola austerity e nessuna crescita, mettono a repentaglio l'intera crescita mondiale. Continua l'OCSE: la debolezza di Germania, Francia e Italia ha annullato i miglioramenti nella periferia, immagino sia Grecia e Spagna e Irlanda. I debiti sono troppo alti. L'Italia è in fondo alla classifica quanto a crescita del PIL, diciamo siamo davanti solo alla Russia, che ferma lo 0, più 0,2% stima l'OCSE nel 2015. Speriamo che sbagli, ma faccio notare che è una cifra inferiore allo 0,5 stimato dal governo, e non vorrei che a novembre iniziassero già le prime, prima ancora di iniziare l'anno già siamo alle revisioni sulla crescita. È un film che abbiamo purtroppo visto negli ultimi 3 anni. Diciamo, lo eviteremo volentieri, perché il déjà vu in questo caso è tutto tranne che piacevole, per cui si spara una cifra, si dice una cifra sulla crescita economica, lo 0,5, e poi iniziano le correzioni. Ora l'OCSE dice 0,2 l'anno prossimo, e va bene. La Germania, tra l'altro, oggi è uscita con un dato sugli ordinativi manifatturieri che sono inferiori alle attese. Ad agosto ricorderete che gli ordini erano calati del 4,2%. A settembre hanno fatto un più 0,8, gli analisti si aspettavano un più 2,4. Gli ordinativi all'industria sono un indicatore fondamentale per capire quella che sarà poi la produzione industriale, come si muove l'industria tedesca. Beh, più 0,8 recupera solo in piccola parte il calo forte di agosto. Oggi il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto che, considerato l'attuale rallentamento della crescita economica, il governo ha annunciato nuovi investimenti per 10 miliardi di euro entro il 2018, non saranno reperite queste risorse aumentando il debito, per cui saranno nuove risorse ma non aumentando il debito. Veniamo anche alla vicenda che riguarda Juncker, quindi passiamo anche ai temi del... su Juncker arrivo tra un attimo, perché non è tanto il battibecco, lo scontro verbale con Renzi, c'è una vicenda un po' più delicata, un po' più imbarazzante per il neo presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Adesso vi arriviamo, continuiamo con altre notizie, però per quello che riguarda l'Italia... oggi segnalo che su Sole 24 Ore l'effetto, c'è un'interessantissima pagina su come l'effetto della crisi si faccia sentire sulle pensioni, perché per la prima volta dalla riforma Dini, che è del 1995, subiranno una rivalutazione negativa, cioè perderanno lo 0,19%, per cui se uno ha 10.000 euro accantonati diventeranno 9.982. Questo è l'effetto del metodo di calcolo previsto dalla legge Dini, che si basa sul PIL degli ultimi 5 anni. E quindi lo scorso 27 ottobre il Ministero del Lavoro e l'Istat hanno inviato al Ministero dell'Economia un documento che di fatto sancisce il dato negativo. La sottrazione riguarderà di soldi del salvadanaio previdenziale riguarderà tutti i lavoratori, non solo quelli che hanno iniziato a lavorare col metodo contributivo, poiché la riforma Monti-Fornero prevede che dal 2012 il contributivo pieno sia applicato anche a chi ha iniziato a lavorare prima del 1995. Quindi è l'effetto della Dini, nel senso che se tu devi moltiplicare per il PIL è negativo e quindi moltiplichi in negativo per 0,19. La ST di Terni, andiamo verso la conclusione delle notizie in breve. Nuovo incontro lunedì 10 novembre, si è concluso oggi il tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, c'è un accordo sul pagamento degli stipendi, che insomma ci sembrava il minimo, visto che... E comunque il Ministero dello Sviluppo Economico è soddisfatto perché è annunciato infatti lo sblocco della vertenza della ST, sia perché c'è la disponibilità dell'azienda a modificare il piano industriale che appunto, come ricordavamo, procede al pagamento degli stipendi. Tant'è che il sindacato ha esonerato tutte le aree amministrative della ST proprio perché possono predisporre il pagamento dello stipendio. Lo sciopero infatti continua, l'azienda si è impegnata a pagare gli stipendi entro lunedì, ma come ricordava anche il segretario nazionale della FIMCIS Marco Bentivoglio, lo sciopero continua con l'unica eccezione dell'esenzione del personale amministrativo che deve fare le buste paga. Il Consiglio di amministrazione dell'Italia, che oggi si è riunito ieri, però secondo quanto si è appreso oggi, ha individuato in Luca Cordero di Montezemolo il presidente designato della nuova Alitalia. Attenzione, questo è il CDA della CAI ancora. Poi vi sarà un nuovo Consiglio di amministrazione che sarà il risultato anche dell'ingresso di Etihad. Quindi possiamo dire che questo è il CDA, tra virgolette, della vecchia Alitalia. Mentre per quello che riguarda il fisco, segnalo quanto ha dichiarato oggi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, a un dibattito sulla lotta all'evasione che si è tenuto alla Camera dei Deputati. Ha detto: attenzione, l'attuazione di una maggiore tracciabilità dei pagamenti porterà al superamento degli scontrini fiscali e anche all'abbandono dei blitz sul territorio, blitz spesso criticati per la scarsa efficacia per il fisco, per i conti dell'Agenzia delle Entrate, e invece grande clamore mediatico. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. No, volevo dare un'ultima buona notizia prima di passare ai temi europei, partendo da Juncker e arrivando a Mario Draghi. Sì, è una buona notizia perché secondo me con quello che è successo è il minimo. Dopo lo scandalo che è stato sollevato nei giorni scorsi dalla pubblicazione della retribuzione percepita dall'ex segretario della CISL Raffaele Bonanni durante il suo mandato, ieri sono giunte le sue dimissioni dalla direzione del centro studi. Era l'ultimo incarico ancora ricoperto. Attendiamo però nuovi passaggi, perché il neo segretario della CISL ha detto: staremo a vedere, se qualcuno ha sbagliato deve pagare. La vicenda qual è? Bonanni si è scoperto che è andato in pensione con 8.593 euro lordi al mese, 5.390 euro netti. Ora uno dice: vabbè, probabilmente è il risultato, anzi sicuramente, dello stipendio che ha ottenuto. Però, attenzione, che il problema qui non è solo l'ammontare della pensione di Bonanni, è come mai sia arrivato a quello stipendio. L'ultimo stipendio, anno di pensionamento del 2011, era di 336.000 euro. Poi noi stiamo facendo la campagna, la battaglia per i dirigenti dell'Assemblea regionale siciliana che non vogliono scendere, così come gli ex consiglieri della regione Lombardia che fanno i comitati contro la riduzione del vitalizio, i dirigenti della regione Sicilia che non vogliono scendere a 240.000. E poi scopri che Bonanni, e lasciamo stare che la CISL da sempre venga accusata di essere troppo vicina al pubblico impiego e che abbia contribuito a non introdurre il merito nel pubblico impiego, ma dico, come fai poi a accettare che Bonanni prende 386.000 euro lordi quando il regolamento interno della CISL prevede un aumento del 30% a chi viene nominato segretario generale? Allora, siccome lui guadagnava 80.000 euro lordi nel 2006, anno in cui viene nominato segretario generale, avrebbe dovuto guadagnare circa 100.000 euro lordi. Invece, già nel 2006 dichiara all'INPS una retribuzione lorda di 118.000, e non si capisce come mai. Nel 2007 171.000, è il 45% in più. Nel 2008 200.000, un altro 17% in più di aumento del suo stipendio. Nel 2009 255.000 euro, un altro 26% in più di aumento dello stipendio. Nel 2010 si contiene, 267.000 più 4%, sempre sopra l'inflazione, diciamo. E nel 2011, l'ultimo anno, schizza a 336.000 più 25%. Ora io vorrei sapere come è stato possibile avere botte di aumento del 45%, del 17%, del 26% e del 25%. Cioè, al di là del ruolo che ricopre, non penso che ci sia un dirigente normale, lasciamo stare i bonus dei super manager, dico, che abbia avuto un aumento del genere in questi anni, perché poi sono gli anni in cui scoppia la crisi. E Bonanni scrive nella sua lettera al neo segretario Anna Maria Furlan: mi dimetto con lo scopo di mettere fine alle polemiche sulla pensione e per evitare che le notizie uscite in questi giorni abbiano ripercussioni negative per l'organizzazione. Mi scusi Bonanni, non è che basta che lei si dimetta dalla direzione del centro studi e le polemiche placano, perché le polemiche non sono sulla direzione del centro studi, sono su come mai lei ha avuto aumenti di questa entità che hanno portato lo stipendio a triplicare in 7 anni da segretario della CISL, negli anni in cui la disoccupazione toccava il record e in cui si aprivano 20.000 fronti di polemica anche col sindacato sul ruolo del pubblico impiego. Ma che discorsi sono? Non è che uno si dimette dal centro studi e adesso la finiamo così. Tra l'altro sembra che sia stata la dirigenza del sindacato ad aver espresso chiaramente a Bonanni la necessità di distinguere la sua immagine da quella della CISL, richiedendogli di fatto di lasciare la direzione del centro studi. Però insomma, io vorrei capire, ma tra l'altro le dimissioni le ha date ieri, nel giorno in cui i 3 sindacati erano mobilitati per i pensionati, quelli veri però, non il pensionato da 8.593 euro. Parlate sempre delle pensioni da 800, da 700 e poi scopriamo che lei ha beccato botte d'aumenti a 2 cifre di anno in anno, ma non capisco legati a che cosa, anche perché qual è l'obiettivo del segretario generale della CIS, qual è il premio di risultato? Non so, chiudere contratti, ma dovrebbe essere parte del tuo lavoro, non lo so. Vabbè, intanto continua la vicenda scandalosa di Pompei, anche domani mattina i cancelli chiusi, oltre 1.100 turisti in fila per poter entrare negli scavi, seconda giornata di agitazione dei dipendenti, da ieri in corso l'agitazione dei dipendenti che si riuniscono in assemblea dalle prime ore del mattino, ieri 2.000 turisti fuori dai cancelli, questa mattina dalle 8.30 alle 11 oltre 1.100 persone. Ma qual è la causa dell'agitazione? I sindacati lamentano la cattiva organizzazione dei turni di vigilanza degli scavi. Sono contestate le recenti assunzioni che non avrebbero risolto la carenza del personale. Franceschini fa notare che 78 sono nuovi assunti e altri 75 arriveranno entro dicembre. Un danno per l'Italia intera, dice lo stesso Franceschini e lo ribadisce anche il sottosegretario al Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, Borletti Buitoni, intervistata dal nostro Simone Spezia durante Effetto Giorno. È inaccettabile, incalcolabile, un danno d'immagine, un danno reale, perché naturalmente questi visitatori sono rimasti fuori. Ci continuiamo a far del male nel nostro paese, abbiamo nei beni culturali il miglior biglietto da visita per il mondo e per il mondo da noi e continuiamo a buttarlo via. Ovviamente l'attività sindacale ha tutto il diritto di esplicitarsi nel modo in cui lo si ritiene di farlo, però non c'è dubbio che la fruizione di un bene culturale è un servizio pubblico. Ora, che all'interno di questo servizio pubblico si debbano trovare gli spazi perché l'attività sindacale si svolga, siamo tutti d'accordo, ma questo non può andare a detrimento completo del servizio stesso. E credo che all'interno di questo quadro, e quindi dando a questo ambito l'importanza che merita, si debba trovare con i sindacati a livello nazionale un accordo che preveda che anche nel caso di appunto riunioni, assemblee, piuttosto che anche scioperi, sia rispettato perlomeno in parte quello che è il dovere di uno Stato. E questo deve essere frutto di un accordo condiviso, non deve essere un'imposizione unilaterale, però io credo che se si valuta il danno che viene fatto al nostro paese con quello che sta succedendo in questi giorni a Pompei, so- soprattutto a livello nazionale i sindacati non possono che convenire che l'ambito dei beni culturali debba avere un trattamento diverso. Sì, c'è qualcuno di voi che sta suggerendo, beh, a questo punto, visto com'è gestita Pompei e visto che si permettono di bloccare, licenziate tutti, non so se si possa licenziare, temo di no, tutti i dipendenti di Pompei e assumere di nuovi, giovani e volonterosi, visto quello che è successo anche all'Opera di Roma, mi sembra che poi tra il dire e fare ci sia di mezzo il mare, ma io vorrei capire veramente... I sindacati UIL, UNSA, RSU, cioè la cattiva organizzazione dei turni di vigilanza degli scavi, le recenti, contestano le recenti assunzioni, ma almeno le hanno fatte, 78 nuovi assunti, non, veramente non capisco. Vabbè, 349-238-6666 per i vostri sms, poi la pagina di Focus Economia su Facebook, c'è il meteo, poi iniziamo con... la vicenda che sta imbarazzando non poco Juncker, non è lo scontro con Renzi, Juncker ha addirittura cancellato la sua partecipazione a una conferenza sull'Europa a Bruxelles, perché sta scoppiando uno scandalo che è già stato battezzato LuxLeaks, Luxembourg Leaks, sui patti fiscali segreti tra 340 multinazionali e il governo del Lussemburgo. Voi direte che cavolo c'entra Juncker? Juncker era premier, è lussemburghese ed era anche premier e adesso fa il presidente della Commissione Europea. Allora, vediamo se riusciamo a raccontarla questa vicenda che coinvolge direttamente Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, neo presidente della Commissione Europea. Lui è stato per 18 anni presidente del Consiglio Premier del Lussemburgo. Ora, una inchiesta che viene pubblicata in esclusiva da settimana L'Espresso, inchiesta chiaramente europea, accusa il, ed è un'inchiesta del The International Consortium of Investigative Journalism, diffusa in contemporanea in 26 paesi, pubblicata appunto in Italia dal settimanale L'Espresso, segnala accordi segreti tra le autorità del Lussemburgo e 300 gruppi di tutto il mondo, di cui 31 italiani, per spostare flussi finanziari enormi pagando tasse minime. Il tema è sempre il solito: finché l'area euro avrà una tassazione così diversa, per cui tu puoi mettere la sede legale, ricorderete i grandi colossi del mondo internet accusati anche di questo, per cui tu paghi legalmente dove ti conviene anche se operi in Italia, poi la sede legale è dall'altra parte, non c'è solo, ne sono tanti. Allora, su questo l'accusa di un'emorragia di fondi perfettamente legale, che però sottrae risorse all'economia del resto dell'Unione Europea, perché sono tasse che non paghi dove dovresti. Allora, l'accusa è la seguente: la palma va a Procter & Gamble, 80 miliardi di dollari a suon di certificati che coinvolgerebbero anche la filiale italiana di Roma, di flussi portati in Lussemburgo. Carlyle Group, 240 milioni di sterline, più 150 milioni di dollari. E.ON, 2 miliardi e mezzo di euro. Gazprom, 4 miliardi di dollari di flussi. GlaxoSmithKline, 6 miliardi e mezzo. Gruppo Heinz, 5 miliardi e 700 milioni di dollari. Il fondo per Mira, che controlla Hugo Boss e insieme ad alcuni membri della famiglia Marzotto, 284 milioni di sterline. Il colosso immobiliare Ines, con le sue attività italiane. E poi banche, tra cui vengono citate Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Sella, addirittura aziende di Stato come Finmeccanica e i fondi immobiliari di Deutsche Bank, e anche un accordo fiscale concluso da Finmeccanica. Fatto sta che questo ha una ripercussione politica immediata, è tutto legale perché lo puoi fare, ma dal punto di vista politico l'opportunità che l'ex presidente del Lussemburgo, che ha, se venisse dimostrati che questi accordi erano segreti per spostare sotto banco, per spostare questi flussi finanziari, mi chiedo come potrebbe essere titolato a parlare a nome della fiscalità europea uno che per 18 anni ha gestito accordi di questo tipo. Questa è l'accusa, Allora, su questo, non su questo, ma sul battibecco invece con Juncker sull'Unione Europea, covo di burocrati, è tornato il premier oggi Matteo Renzi a Vimercate, dicendo: io non ho mai detto che l'Unione Europea sia un covo di burocrati, però ho anche detto che l'Unione Europea non si deve chiudere in un recinto dorato di burocrazia. Noi non abbiamo voglia di fare le polemiche con i vertici europei, noi non stiamo lamentandoci di ciò che accade a Bruxelles. Io ad esempio non ho mai detto che a Bruxelles la Commissione è un covo di burocrati. Però ora che l'hanno detto loro, mi fa quasi pensare l'idea, perché se la Commissione vuole non essere il luogo della burocrazia, bene, ce l'ha un'occasione di dimostrarlo concretamente. Liberi le risorse per l'innovazione, la tecnologia, la banda larga, i prodotti di alta qualità tecnologica, le liberi dal computo del patto di stabilità. Consenta di investire, se davvero vogliono essere quelli che non si chiudono nel recinto dorato della burocrazia, abbiano il coraggio di dire che tutto ciò che viene investito per creare skills professionalmente rilevanti, tutto ciò che viene investito per creare reti di nuova generazione, tutto ciò che viene investito per creare prodotti tecnologici di altissimo livello, tutto questo venga tolto dalle catene del patto di stabilità e dimostriamo che allora l'eurozona può tornare a crescere. Su questo è intervenuto anche il ministro dell'economia Padoan. Vedo un messaggio, lo voglio leggere, però relativo alla vicenda di Bonanni, dei mega aumenti di stipendio che si è dato mentre era segretario della CISL, che portano, visto che va in pensione con retributivo, portano la sua pensione a 8.500 euro. Scrive un ascoltatore: cattivi anni per i lavoratori, buoni anni per lui, giocando col nome, non male, buon anni per lui, buon anni per lo stipendio di Bonanni, sì. Dicevo, Padoan sul rapporto Juncker-Renzi e sul dialogo con la Commissione Europea. Trovo che sia stato in parte costruito ad arte e, per quanto mi riguarda, conoscendo e avendo rapporti personali sia col Presidente Juncker che ovviamente con il Presidente del Consiglio, posso garantire che i rapporti sono assolutamente totalmente cordiali. Mi sono fatto l'idea che l'Italia ha dimostrato molte cose con questa legge di stabilità e con gli ulteriori aggiustamenti. Primo, che continua a mantenere un equilibrio solido tra consolidamento della finanza pubblica e sostegno alla crescita, grazie a una dimensione e a una composizione della politica della legge di stabilità che, come sapete, favorisce i redditi bassi, permette un taglio di tasse veramente di dimensione ragguardevole e, insieme al programma di riforme strutturali, darà un boost alla crescita dell'Italia. Credo che questo sia il messaggio più forte e sono assolutamente tranquillo che il dialogo con i colleghi europei, colloqui a Ecofin dentro l'Eurogruppo e con la Commissione continuerà in modo molto positivo. E adesso dalla Commissione Europea alla Banca Centrale Europea, Alessandro Merli, buonasera. Buonasera a voi. Corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Certo che sta cosa di Juncker non ci voleva, perché io penso che comunque Renzi goda. Staremo a vedere come andrà la vicenda, è molto delicata. Juncker ha annullato la conferenza stampa oggi, teme l'attacco, già lo chiamano Luxembourg Leaks, lo scandalo del Lussemburgo. Comunque, veniamo a noi. Alessandro, oggi la BCE ha confermato il tasso 0,05%, ma soprattutto le attese erano per sapere se vi fossero tensioni, contrasti emersi ieri nella cena informale oggi. Allora, ha detto Draghi, non c'è divisione nel board della BCE tra nord e sud, come dire, tra Germania e paesi a lei vicina e Italia o Francia. It's fairly normal to disagree about things. È abbastanza normale che vi sia disaccordo su alcune cose. Succede ovunque, succede nel Regno Unito, in Giappone, e fa parte della normale dialettica. Penso che la migliore risposta alle vostre domande si trovi nel comunicato che ho appena letto. Un comunicato che contiene novità rilevanti rispetto al passato e che è stato approvato all'unanimità. Voglio sottolineare che quando ci sono delle divergenze di vedute a proposito delle varie misure, non è che viene tirata una riga che separa nord e sud. Non ci sono coalizioni, assolutamente no. E poi la cena, Alessandro, nessuna tensione, è andata meglio del previsto, che vuol dire che comunque anche lui si aspettava qualche contestazione o qualche spigolatura. Per quello che so, una simile preoccupazione non è stata manifestata. Nel corso di tutta la cena abbiamo avuto colloqui ricchi e interessanti, ed è per questo che credo che la cena sia stata un successo. Ripeto, le discussioni sono state intense ma molto franche, e non è stata manifestata alcuna preoccupazione, per quanto ne so. Non ho il dono dell'ubiquità, non ho visto niente, quindi ribadisco, la cena è andata come da attese, anzi meglio di quanto ci aspettassimo. Allora, Alessandro Melli, risulta anche a te la cena di ieri, e poi insomma che il board abbia votato all'unanimità nuove misure non ordinarie, non convenzionali per la BCE, è dato di fatto, ma volevo partire dalla cena, Alessandro. Quando Draghi ha detto la cena è andata meglio del previsto, ci sono state delle risatine in conferenza stampa. Indubbiamente ci sono dei dissensi all'interno del Consiglio della Banca Centrale Europea, questo è innegabile. Indubbiamente anche di questo rapporto della Reuters che aveva sollevato la questione delle divergenze, soprattutto personalizzando molto la cosa sullo stile diciamo di leadership, di gestione di Draghi, aveva suscitato qualche preoccupazione. Draghi ha molto minimizzato, è normale avere dei disaccordi, questi ci sono alla Fed come alla Banca del Giappone, come alla Banca d'Inghilterra, e tutto questo è vero. Io credo che gli scontri torneranno quando poi la decisione vera e propria sull'eventuale acquisto di titoli del debito pubblico dovrà essere presa. Nel frattempo però non c'è dubbio che Draghi ha dato una lezione magistrale di come si conduce diciamo un consesso così complicato come il Consiglio della BCE, dove ci sono i 6 membri basati a Francoforte e gli altri 18 che sono governatori di banche centrali nazionali, quindi portatori di istanze e di politiche in senso lato molto, molto diverse. Ti cito solo una cosa fra i rapporti, 1000 rapporti che escono subito dopo la conferenza stampa di Draghi, ogni primo giovedì del mese ce n'è uno del capo economista della Commerzbank, che non può essere certo considerato un grande sostenitore di Draghi dal punto di vista delle idee di politica monetaria. Il titolo è Draghi is the boss, cioè Draghi ha riaffermato il fatto che è lui che guida le danze, sul fatto poi che ci saranno spaccature, che torneranno, io credo che non ci sia dubbio su questo, perché la opinione pubblica tedesca è contraria, una parte della politica tedesca è contraria, la Bundesbank è contraria, la Corte, ecco, su questo no, io non sono, rispondo all'ascoltatore, non sono renziano, basta con sta menata, ho solo detto che Juncker in estrema difficoltà, probabilmente, non dico che Renzi goda, ma non gli farà dispiacere dopo lo scambio di battibecchi che hanno avuto negli ultimi giorni. Detto questo, tornando sulla Banca Centrale Europea, dopo il traffico, Alessandro, vorrei capire però che cosa vuol dire, alla luce di quello che tu ci hai appena ricordato, quando Draghi dice tutto lo staff della BCE ha avuto mandato unanime, quindi non c'è nessuna eccezione, per adottare eventualmente nuove misure non convenzionali. Siccome a casa mia ormai è rimasta solo l'acquisto di titoli di Stato e quindi lo stampaggio di moneta, perché l'acquisto di asset-backed security l'ha già annunciato, i soldi da dare alle banche perché li girino imprese e famiglie li ha annunciati a giugno, manca solo lo stampaggio di moneta. Vorrei capire quali potrebbero essere altre misure non convenzionali, cosa significa questa fase di Draghi. Allora, Alessandro Merli, cosa vuol dire, se hanno avuto mandato unanime, quali altre misure eccezionali, misure non convenzionali potrebbe adottare la Banca Centrale al di là, diciamo, dell'acquisto di titoli di Stato, di debito stampando euro? Ma allora, Draghi intanto ha detto noi delle misure in questi mesi le abbiamo già prese, siamo fiduciosi che queste funzionino. Però ci sono due condizioni in base alle quali potremmo prenderne altre. Una è che queste misure poi si rivelino non sufficienti e l'altra è che invece la situazione continui a peggiorare, cioè la situazione dell'inflazione, delle aspettative di inflazione, della crescita nell'Eurozona. A questo punto non resta molto nel repertorio, nell'arsenale, come si usa dire, della Banca Centrale Europea. Potrebbero comprare obbligazioni societarie, ma sappiamo che comunque si tratta di un campo, di un universo abbastanza ristretto. E l'altra grande carta ovviamente è quella dell'acquisto di debito pubblico, e inevitabilmente, anche se Draghi non l'ha detto esplicitamente, i mercati si aspettano proprio questo, cioè che con la frase di oggi Draghi abbia aperto questa strada, o forse abbia avvicinato questa prospettiva, dicendo che ha dato mandato, il Consiglio unanimemente ha dato mandato allo staff e ai comitati composti dai rappresentanti delle banche centrali nazionali di studiare e di preparare delle misure in modo da essere pronti. Poi, in risposta proprio a una mia domanda, ha detto: sappiamo che i rischi sono al ribasso, lo staff lo sa, quindi ci muoveremo con urgenza, il che fa pensare che questa decisione poi alla fine possa essere abbastanza imminente. Questo è il punto. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Francoforte, dove è appunto corrispondente per il Sole 24 Ore. La borsa, chiaramente molto influenzata dalla Banca Centrale Europea, dovete accontentarvi del mio commento oggi. Non c'è moltissimo altro da dire al di là di quello che abbiamo raccontato sulla BCE, se non per Finmeccanica, che oggi ha pubblicato i dati trimestrali, migliorano le previsioni sui risultati del 2014, è piaciuta la revisione al rialzo delle stime per l'intero 2014 e in linea con le attese del mercato la trimestrale, ma non la revisione al rialzo delle stime. E il 17 novembre è il termine indicato dal numero 1 Mauro Moretti per le offerte vincolanti per il settore trasporti del gruppo Ansaldo CTS in primo luogo. Finmeccanica guadagna il 6,25%, quindi ben apprezzata, più che ben apprezzata dal mercato la prima trimestrale a firma di Moretti. A2A anche qui bene la trimestrale, più 1,22% il titolo, c'è una forte riduzione del debito per A2A. E pure Iux ha avuto una trimestrale positiva, ma inferiore evidentemente a quanto non si attendesse il mercato, che infatti penalizza il titolo, che perde 4,71%, è il peggior titolo oggi tra quelli di maggiore capitalizzazione. Negativa anche la Pop di Milano dello 4,60%, Monte dei Paschi del 3,60%, Unipolsai del 2,70%, Popolare Emilia Romagna meno 2,6%, come Ubibanca. Il Banco Popolare perde il 2,40%, invece più contenuti si confermano i cali di Intesa San Paolo meno 0,50% e di Unicredit meno 0,90%. Uscita oggi anche la trimestrale e i primi 9 mesi per Generali, utile stabile a 1 miliardo e 600 milioni di euro, i premi aumentano del 6,5%, se si esclude l'effetto dismissioni il risultato cresce del 7,5%, e il direttore finanziario delle Generali, Alberto Minali, ha detto: con questa situazione di capitale ci sentiamo nella situazione di poter rimuovere il vincolo del 40% del payout ratio, insomma si attendono dividendi più alti. Fredda però la reazione della borsa sul titolo Generali, meno 0,24%. L'indice complessivo di Piazza Affari, non l'ho detto, avete ragione, meno 0,70%, mentre Parigi guadagna lo 0,40%, Francoforte lo 0,60%, Londra meno 0,20%, in America più 0,18%. Tra chi va bene finisco col citare Prismian, ex Pirelli Cavi più 3,60%, Boots Unicem più 1,70%, Saipem pure, World Duty Free guadagna l'1,60% e ST Microelectronics l'1,30%, Ferragamo l'1%, CNH lo 0,90%, Eni lo 0,20%. Migliore in assoluto D'Amico più 8,50% e poi Finmeccanica. Fronte opposto invece Seat Pagine Gialle meno 8,30% e Bio-On meno 6,21%. nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Continuiamo o riprendiamo il tema di apertura, e quindi la riunione della Banca Centrale Europea e soprattutto le dichiarazioni di Mario Draghi. E ringrazio per averci, ma parliamo anche di banche straniere in Italia e di attrattività per gli investimenti stranieri dell'Italia. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento il presidente dell'Associazione delle Banche Estere in Italia, Guido Rosa, presidente dell'AIBE. Buonasera. Buonasera. Già altre volte nostro ospite, lei rappresenta tra gli altri Citigroup, JP Morgan, Santander, Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank, Barclays. Allora, Rosa, un primo commento alla riunione della Banca Centrale Europea di questa mattina. Draghi, come ricordavamo nella prima ora del programma, ha chiarito che i disaccordi nel Consiglio sono normali, ma il voto è stato unanime ed è quello che conta. Quindi mandato unanime alla Banca Centrale Europea per nuove misure, il board è pronto a ulteriori interventi se necessari. Ha anche smorzato ogni polemica sulla cena di ieri, nessuna tensione è andata meglio del previsto. Qualcuno gli ha chiesto, ma ha visto delle tensioni per alcune frasi delle dette a braccio? Lui ha detto, non ho il dono dell'ubiquità, non ho visto nulla. E poi ha detto che resteremo nel nostro mandato, ma abbiamo molti, abbiamo una varietà di strumenti di intervento, e che il bilancio della BCE risalirà ai livelli del 2012, scontato invece il tasso di interesse invariato allo 0,05%. Mi sembra che le tensioni siano rientrate, o perlomeno non sono emerse. Così è, e mi sembra questo un risultato molto molto positivo. Molto positivo per l'Europa e molto positivo per l'Italia, perché se mai fosse venuta fuori qualche crepa o disaccordo all'interno del mondo della BCE che avesse lasciato supporre una qualche diversità di atteggiamento nei futuri, questo avrebbe scatenato la speculazione, perché naturalmente la speculazione non aspetta altro che infilarsi in situazioni di questo genere. Quindi sono veramente molto contento che ciò non sia successo e che la politica della BCE sia stata in qualche modo confermata, così come confermato Draghi, perché questo non può altro essere che un elemento di continuità e di solidità dei mercati finanziari in Europa, e anche naturalmente un elemento positivo per l'Italia. Ecco Rosa, da martedì le principali banche europee, 120 banche dell'area euro per un totale dell'80% di tutti gli asset bancari, sono passate sotto la vigilanza della Banca Centrale Europea. Esatto. E abbiamo già chiarito cosa vuol dire questo, vuol dire che d'ora in avanti, nel caso di un fallimento o di una grossa crisi, si applicherà il cosiddetto bail-in, quello sul modello di Cipro, cioè iniziano a pagare prima gli azionisti, gli obbligazionisti junior in possesso di titoli subordinati, gli obbligazionisti senior e i correntisti con depositi sopra i 100.000 euro. Solo a quel punto, in seconda battuta, interverrà invece un sostegno pubblico esterno, il bailout, mentre prima eravamo abituati che comunque quando la banca aveva problemi in Germania o in Italia interveniva il pubblico e poi la si risolveva nei confini nazionali. Questo modello, intanto vorrei un suo giudizio, ma soprattutto come si concilia con la sensazione che abbiamo avuto che gli stress test in realtà abbiano favorito le banche del centro-nord Europa più esposte in investimenti finanziari e meno quelle italiane più esposte in prestiti alle imprese? Dunque, guardi, la prima considerazione che faccio è che questa supervisione unica, che è in realtà un mondo molto complesso, perché lei ha accennato giustamente al problema del bail-in e bail-out, ma non è solo quello. In realtà quello che dovrebbe significare è di avere un level playing field, cioè un campo di gioco assolutamente livellato in termini di regole, per tutto il sistema bancario europeo. Questo secondo me è un obiettivo assolutamente positivo da perseguire, perché non può altro che portare dei benefici anche e soprattutto, diciamo, al piccolo imprenditore, al piccolo risparmiatore, a chi comunque opera con il sistema bancario, perché sa che queste regole si applicano in tutti i paesi d'Europa. La seconda domanda che lei mi fa sulla questione degli stress test, questa è una domanda molto più delicata. Da un punto di vista istituzionale non posso altro che rispondere che non posso pensare che siano stati applicati criteri volutamente diversi di valutazione no, questo no. Tra alle banche. È certo però che faccio delle considerazioni. La prima è che evidentemente comunque il sistema bancario italiano è l'unico sistema che è venuto fuori dalla crisi senza avere un sostegno pubblico, mentre tutte le altre banche che hanno superato tutte quelle grandi banche che erano in difficoltà e che oggi hanno superato gli stress test, li hanno superati beneficiando dell'aiuto pubblico, è chiaro? Mm-hmm. E quindi insomma in questo modo voglio dire bisogna anche che ci sia un qualche tipo di valutazione. La seconda cosa è che credo che ci sia anche un vero e proprio problema di un gap di comunicazione, perché è venuto fuori, questo l'abbiamo visto sulla stampa internazionale, una critica addirittura mortale sul sistema bancario italiano. Ha detto che il sistema bancario italiano è allo sbando, ma questo non è vero, perché naturalmente dimenticano che di quelle 9 banche, 7 hanno già preso tutta una serie di misure che dovrebbero riportarle dentro gli schemi accettati, e le 2 che noi conosciamo, che sono ancora nell'occhio del ciclone, comunque mi sembra che siano casi sostanzialmente risolvibili. Dunque ho l'impressione che come al solito ci sia anche un grosso problema di comunicazione, come al solito l'Italia in quanto tale viene attaccata perché è l'Italia, non perché le banche italiane sono più deboli delle banche tedesche o francesi. No, sì, io mi riferivo al fatto che, che gli stress test utilizzando per esempio anche tutti gli elementi di Basilea 3 vanno a penalizzare chi presta soldi a piccole e medie imprese. Questo a favore di chi invece magari li investe in operazioni finanziarie a rischio. Questo che lei dice è assolutamente vero e corretto. Questo è un problema fondamentale, strutturale, che vale per le banche italiane come per perché non si può poi dire alle banche presta i soldi alle piccole imprese se poi vieni penalizzato nei test quando presti i soldi alle piccole imprese. E lo stesso Draghi ha messo a disposizione 800 miliardi per prestarli alle imprese, poi però scopriamo che negli stress test la banca che li presta è trattata peggio della banca che magari investe in derivati. Mi dica però un'ultima cosa, Rosa, voi avete pubblicato recentemente, ieri, il rapporto AIBE Index, migliora un po' l'attrattività dell'Italia per gli investimenti finanziari? Sì, migliora un pochino, diciamo che l'indice finale nell'ultimo release era il 33 su 100, adesso è diventato 38,3, quindi c'è un piccolo miglioramento, il che naturalmente è positivo. Rimane comunque il problema di fondo che in una ideale classifica di paesi che hanno capacità di attrarre, l'Italia rimane una degli ultimi, superata perfino dalla Spagna. Quindi i problemi di fondo rimangono. Il miglioramento secondo noi è dovuto perché c'è una percezione da parte degli investitori di una volontà da parte delle istituzioni del governo di voler cambiare tutti quei problemi, quei nodi strutturali che stanno strangolando l'economia italiana. Naturalmente parliamo di soldi, giustizia, burocrazia, tasse. E che allontanano gli investimenti. E che allontanano gli investitori esteri in Italia, che allontanano gli investitori italiani che vanno all'estero. Vedremo se poi l'indice migliorerà e soprattutto, come noi ci auguriamo, se il governo riuscirà a arrivare a capo delle riforme annunciate. Grazie intanto al presidente dell'Associazione delle Banche Estere in Italia, Guido Rosa. Grazie mille, arrivederci. Adesso il traffico e poi l'ultimo tema di Focus Economia, come recuperare, un suggerimento che diamo agli enti locali, ai comuni e alle regioni, recuperare gli incassi che non riescono a recuperare, nel senso che non si arriva al 20% di quello affidato. Ultima parte di Focus Economia. E allora, come già ricordavamo nelle notizie di apertura, nelle notizie in breve, oggi Rossella Orlandi, che è il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta a un dibattito sulla lotta all'evasione che era in corso alla Camera, ha detto: attenzione, l'attuazione di una maggiore tracciabilità dei pagamenti porterà al superamento degli scontrini fiscali e anche all'abbandono dei blitz sul territorio. Devo dire blitz che delle volte hanno suscitato più di una polemica perché avevano un grosso effetto mediatico, meno forse sul fronte del reale incasso per le finanze italiane. E a questo proposito vale la pena notare che poi vedremo se veramente la tracciabilità porterà all'eliminazione degli scontrini fiscali e all'abbandono dei blitz sul territorio. Quello che è certo invece è che in tema di riscossione dei tributi degli enti locali, su cui il governo fa anche molto affidamento nella manovra finanziaria, Beh, insomma, nel 2012 Equitalia è riuscita a recuperare solo il 2% del totale che le è stato affidato. Pensate che in 10 anni l'andamento del recupero è comunque inferiore al 20%. E questo significa, stiamo parlando degli incassi dei tributi locali, che ammontano nel 2012 a circa 34 miliardi di euro, che con IMU e TARSU rappresentano il peso più significativo di tutto l'ammontare. Rispettivamente di questi 34 miliardi, l'IMU al 70%, la TARSU il 24%. Allora, visto che spesso parliamo degli enti locali che sono, non dico in rivolta ma in agitazione per via dei tagli che gli ha chiesto la manovra finanziaria, ebbene, oltre a risparmiare su alcune spese, come spesso raccontiamo, e oltre che a decidersi anche a vendere le partecipate municipalizzate o enti regionali, dovrebbero anche cercare di migliorare il loro incasso, visto che appunto è inferiore al 20% quello che Equitalia recupera rispetto a quello che le ha affidato. Allora, c'è uno studio a questo proposito realizzato da KPMG per Unirec, che è l'Unione delle Imprese a Tutela del Credito, è sostanzialmente l'associazione di Confindustria che riunisce le imprese dei servizi a tutela del credito, 18.000 addetti, 200 aziende, che nel 2012 hanno gestito 39 milioni di pratiche affidate spesso da privati, da banche, da società finanziarie, da società di utilities e telecomunicazioni, per recuperare appunto il credito, per un ammontare complessivo di 49 miliardi di crediti da recuperare che le sono stati affidati, di cui quasi 10 recuperati. Siamo in collegamento con il presidente di Unirec, Gianni Amprimo. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Che cosa emerge dallo studio che KPMG ha realizzato per voi, quanto proprio ad enti locali? Sostanzialmente emerge che nella pubblica amministrazione non esiste un modello efficiente per il recupero dei crediti. È molto semplice anche da schematizzare. Le fasi in cui si articola il processo di recupero sono tre, quelle seguite dalla pubblica amministrazione. C'è una prima fase che è quella dove viene messo il bollettino relativo alla scadenza tributaria, il cittadino viene invitato a pagare con quest'unica comunicazione. Già se non riceve l'avviso, il bollettino, manco lo sa. Poi c'è una fase 2 che è un lunghissimo periodo che va da 1 a 3 anni, in una recente esperienza che ci è stata raccontata, in cui non viene fatto assolutamente nulla da parte del comune, nessun sollecito, nessun scritto telefonico, salvo ovviamente pochi casi virtuosi. Questa seconda fase lunghissima dura, ripeto, da 1 a 3 anni. E poi c'è la fase 3, quando dopo questo periodo la riscossione viene affidata ad Equitalia o a enti simili per un tentativo di recupero attraverso quella che viene chiamata la riscossione coattiva e che abbiamo visto dai dati della Corte dei Conti che lei ha citato non funzionare assolutamente, si recupera il 2% dopo un anno e si arriva a superare poco più del 10% dopo 5 anni, per cui è chiaramente la rappresentazione di un sistema che non funziona perché non produce incassi, costa lo Stato, costa il cittadino, tra l'altro è quanto mai invasivo con le ganasce fiscali, fermi amministrativi eccetera, insomma una roba che fa arrabbiare tutti, costa e non produce risultati. E quindi ecco che cosa succede, che poi il comune, non avendo entrate, è costretto a alzarle a chi sta pagando. Insomma, un sistema che interviene poco, male, soprattutto molto molto tardi. Qualsiasi azienda privata, banca o finanziaria o di telecomunicazione o di energia che utilizzasse questo metodo o sarebbe già fallita o dovrebbe per forza di cose affidare le tariffe. Ed ecco che quindi vengono proposti da noi e ovviamente anche dalla KPMG, che è una società internazionale di consulenza molto skillata sui sistemi di recupero crediti, quello di utilizzare un approccio più veloce ed intervenire durante questa seconda fase nella quale non viene fatto nulla, quindi non sostituirci ad Equitalia con la riscossione coattiva, ma di intervenire durante questa seconda fase molto molto lunga utilizzando metodologie di sollecito telefonico ed epistolare con procedure e modalità già utilizzate nel mondo privato, quindi un sistema che ha l'obiettivo di incassare i crediti prima dell'azione di Equitalia. Legale, esatto, prima dell'azione di quindi tra il bollettino di pagamento e Equitalia, quindi il tre anni che passano. Voi dite c'è spazio in quel lasso temporale per utilizzare un recupero crediti di carattere stragiudiziale, quindi sollecito telefonico, via lettera, domiciliare. Avete fatto anche una stima di quanto potrebbe entrare in cassa agli enti locali? Ma sì, guardi, la stima è stata fatta appunto da KPMG ed è una stima tra l'altro molto conservativa, e siamo andati anche a esporla in Commissione Finanze del Senato. La stima di maggiori introiti, ripeto, è una stima molto conservativa, di 5 miliardi l'anno in più. Quindi, ma insomma, non è che ci voglia uno scienziato a capire che se in un periodo da 1-3 anni non faccio nulla, e viceversa se utilizzo delle procedure di sollecito, ovviamente fatte da operatori che devono essere organizzati, specializzati, attrezzati anche organizzativamente a gestire centinaia di migliaia di posizioni, perché stiamo parlando di decine e decine di miliardi, ma con un importo medio di 200-300 euro. Quindi operatori specializzati che siano in grado di informare il cittadino, di dare anche assistenza e indicazioni sull'evolversi della sua posizione debitoria in relazione anche poi alle procedure di riscossione, inducendolo così con il dialogo a onorare il suo debito prima della scadenza. Guardi, molto spesso il pagamento è anche semplicemente dovuto a non aver ricevuto il bollettino o una dimenticanza, una contestazione. Viceversa, ci fosse una struttura fatta da operatori specializzati che sollecita, ma anche sta ad ascoltare il cittadino, trova delle soluzioni, ritengo che potrebbe essere anche un servizio che avvicina l'amministrazione al cittadino, soprattutto nei comuni medio-grandi. Quindi diciamo, non è che tutti quelli che non pagano non paghino perché vogliono non pagare. In alcuni casi possono essere dimenticanze o mancato recapito nel caso di cambio di residenza o quant'altro. Sì, devo dire che in un sistema in cui la pubblica amministrazione funzionasse realmente, mi riferisco per esempio alla Gran Bretagna. In Gran Bretagna, per esperienza diretta, quando tu sei in ritardo con i pagamenti di una bolletta, di una tassa comunale, ti arriva un avviso di sollecito e poi il terzo passaggio, a distanza di poche settimane, la convocazione in tribunale, ora e data precisa per chiarire perché non puoi pagare, perché danno anche la possibilità di dire sono in condizione di indigenza, non posso pagare, però vieni convocato in tribunale ai 5 minuti uno dopo l'altro. Chiaro che col sistema della giustizia civile che abbiamo noi questo è impensabile, però faccio notare che nei paesi civili, da questo punto di vista, si è civili nel sollecito, si è civili anche nel tutelare lo Stato e quindi convocare in tribunale il mancato pagatore, e si è civili anche nel dargli la possibilità di spiegare che non ce la fa per motivi di incapienza, di mancati guadagni o quant'altro. Questo è il tutto in tempi strettissimi, ragioniamo di qualche settimana, qualche mese. 5 miliardi e 2 quindi che potrebbero recuperare gli enti locali. Secondo lei, visto che gli enti locali usano anche spesso società esterne, perché non si sono mai rivolti a voi? Con tutta la pletora delle volte che hanno di consulenze, società esterne? Ma lei parla di rivolgersi a società esterne perché magari gli diano un indirizzo su come gestire. No, per la riscossione anche, proprio nella gestione della riscossione. La riscossione, si sono rivolti magari a società esterne sempre di riscossione, ma l'utilizzo diciamo delle procedure stragiudiziali, così come le intendiamo noi, sono utilizzate nel mondo privato. Siamo purtroppo abbastanza agli arbori. Guardi, quando andiamo come associazione a promuovere i nostri servizi, ne cogliamo sicuramente un forte interesse, ma anche una certa resistenza, una qual sorta di paura per il nuovo. Peraltro finora c'era un sistema contabile che non penalizzava assolutamente il comune che non riscuoteva, certo, i propri crediti, consentendogli di accantonare nei famosi residui attivi i crediti inesigibili, ed avendo così insomma dei bilanci apparentemente in regola. Paura di seguire questa via del recupero. Sì, secondo me questo che ha detto è forse l'elemento principale, cioè fino a poco tempo fa, lo spiego a tutti, i comuni potevano mettere nel loro attivo di bilancio anche i crediti che avevano nei confronti dei cittadini, vedi appunto le tasse locali, che non avevano ancora riscosso. È un po' strano, nel senso che qualunque azienda privata non può mettere in bilancio come attivo un credito che non riesce, non è riuscita fino a quel momento a farsi ridare, e quindi anzi diventano delle volte crediti inesigibili. Però nel pubblico, nei comuni, funzionava così, forse c'era meno spinta, ecco perché ad attivarsi. Tanto tu ce l'avevi nell'attivo di bilancio, recuperato o non recuperato, comunque faceva parte del tuo attivo. E dico una cosa a chi ci scrive al 349-238-6666: attenzione, perché qui non è tanto il tema di vessare ancora di più i cittadini, sono tributi dovuti che alcuni cittadini pagano e altri, in quota minore, non pagano. Quindi intanto è un problema di equità, che li paghino tutti, e poi, a meno che uno abbia altri elementi, e poi attenzione, perché poi quando i comuni non riscuotono i tributi, nel caso specifico questi 5 miliardi in più che potrebbero arrivare all'anno, cosa fanno? Aumentano i tributi per tutti, quindi va a danno di chi, anche se volete, ha già pagato, mentre chi non paga, in alcuni casi anche con dolo, continua a beneficiarne. Per cui è un problema di equità vera, non di vessazione, di andare a prendere chi non sta pagando. Non è detto che chi non paga lo faccia sempre ed esclusivamente perché non è abbiente. Questa è una balla storica, e lo vediamo anche in altri casi. Grazie comunque al presidente di Unirec Gianni Amprino. Grazie a lei. Ed è veramente tutto per questa puntata, anche per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.